L'amore non è buddista, l'amore è pacifista, l'amore non è musulmano, l'amore in ogni uomo, l'amore non dà mai torto, né cerca di farsi grande, l'amore non è cristiano, l'amore è ignorante. In ogni tuo gesto regna, in ogni tua carezza, quando apri la bocca e sai ascoltare chi ha la gola secca, in ogni sguardo che mira nella luce di una mano tesa per abbracciare il mondo senza alcuna pretesa. L'amore spacca il cielo, va al di là di ogni mistero. L'amore non ha confini, né limiti, né anatemi. L'amore sei tu il suo tempio. L'amore non fa scempio, a costo di arrivare. È pronto anche a morire. L'amore non si piega, forte è colui che ama. L'amore è un universo, chi ce l'ha non è mai perso. L'amore non ama vincere, né perdersi nel vuoto. L'amore non si grida, è il respiro, una spada, un fuoco. Non ascolta né predica menzogna, chiede sempre strada, mette la freccia senza vergogna. L'amore non attira, non è una calamita, è l'amore che fa di te un'eterna scintilla infinita. L'amore non si vanta, né chiede mai perdono, perché ha già perdonato prima ancora di essere ferito. L'amore è una conquista, un traguardo per chi vede oltre ogni misera, miseria, ogni ipocrita memoria. L'amore spacca il cielo, va al di là di ogni mistero. L'amore non ha confini, né limiti, né anatemi. L'amore sei tu il suo tempio. L'amore non fa scempio, a costo di arrivare. È pronto anche a morire. L'amore non si piega, forte è colui che ama. L'amore è un universo, chi ce l'ha non è mai perso. L'amore non ama vincere, né perdersi nel vuoto. L'amore non si grida, è il respiro, una spada, il fuoco. L'amore vede tutto e per questo a volte chiude gli occhi, ha le chiavi per entrare in tutti i cuori, anche quelli rotti. L'amore prega vita perché chi ama si riconosce dalla sua faccia, è una carta di identità, un passaporto, un peschereccio che pesca. L'amore non si compra, né in chiesa né in sinagoga. L'amore non ha bisogno di apparire come una piovra. Molti ne fanno un mistero, una reliquia da venerare. Ma l'amore non si imprigiona in nessun rito, in nessun altare. L'amore spacca il cielo,